New Zone. Incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Che si tratti di guidare auto, nutrire e mungere le mucche o eseguire interventi chirurgici, i robot stanno entrando sempre più decisamente in vari ambiti lavorativi. Il loro numero è salito a oltre 1,7 milioni in tutto il mondo. Ma questo boom pone delle domande urgenti. I robot hanno dei diritti? E se sì, quali? Da quali principi etici dovrebbero essere vincolati? Possono essere ritenuti responsabili di incidenti? Secondo il Parlamento europeo è il momento di affrontare la questione. Ne parliamo con l'europarlamentare Caterina Chinnici. È un argomento nuovo per il Parlamento europeo, come si muoverà in materia? Guardi, certamente lo sviluppo della robotica e di tutte le implicazioni che questo comporta in vari settori della vita umana, dai trasporti alle comunicazioni, alla sanità e così via, è sicuramente un argomento nuovo e un argomento sul quale l'Unione Europea ancora una volta deve impegnarsi per armonizzare le legislazioni degli Stati membri, ma in questo caso io direi che deve addirittura prevenirne la frammentazione, perché può proprio intervenire, essendo un argomento nuovo, quindi dettare già quelle che sono le linee guida di una legislazione che deve essere quanto più possibile uniforme. E l'Unione Europea si sta muovendo nel senso di sviluppare, partendo dalle norme esistenti, cioè il regolamento sulla protezione dei dati, che è un regolamento dell'aprile del 2016, e proprio promuovendo una nuova legislazione su queste tematiche. Il tema del legislativo è affrontato in particolare dalla Commissione Giuri, che ha già approvato un rapporto di iniziativa che dovrà andare, una volta approvato dalle commissioni e ottenuto anche il parere della commissione LIBE nella quale io lavoro, andrà poi all'approvazione della plenaria, si spera nel mese di febbraio-marzo, non oltre. Quali sono i principi etici che devono regolare robot e intelligenza artificiale? Sono il rispetto, sostanzialmente il rispetto dei diritti stabiliti nella Carta fondamentale dei diritti appunto europei, e quindi la dignità umana, il rispetto, la tutela della vita privata e familiare, la sicurezza, la protezione dei dati personali, della proprietà intellettuale, la libertà di espressione, l'eguaglianza, la non discriminazione, la solidarietà tra i cittadini, i diritti in genere e la giustizia. Cioè si è posto il tema proprio su questi aspetti. Lo sviluppo della robotica, essenziale sicuramente nel corso dello sviluppo della nostra società, dovrà però tener conto di questi principi. E allora, per esempio, così si è stabilito che occorre intanto adottare una definizione comune di robot autonomi e intelligenti, che venga creata un'agenzia europea per la robotica e per l'intelligenza artificiale e che appunto ci sia un quadro giuridico di protezione, in particolare protezione dei dati sui quali, come si immagina, ci sarà un ulteriore sviluppo proprio a seguito dell'evoluzione della robotica e sui quali bisogna garantire la massima tutela. New Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.